Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Abbiamo bisogno di una nuova generazione di batterie più potenti, più dense energeticamente parlando, più compatte. Da un lato infatti si sta verificando una sorta di convergenza verso l'elettricità a discapito di tutti gli altri vettori energetici, pensiamo per esempio alla mobilità elettrica. Dall'altro abbiamo bisogno di accumulare energia per favorire lo sviluppo delle rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico, che non sono programmabili. Tutto questo fa dell'accumulo elettrico probabilmente la tecnologia chiave del nuovo sistema energetico che vorremmo costruire. Le attuali batterie al litio non sono ancora sufficienti per reggere uno scenario come quello che si sta configurando e d'altronde sono ancora molto lontane dai loro limiti teorici. Quanto e quale potrebbe essere la chiave per la prossima generazione di batterie al litio? Ne parliamo con Vittorio Pellegrini, ricercatore e direttore dei Graphene Labs dell'IT, l'Istituto Italiano di Tecnologia. Pellegrini è già stato nostro ospite, bentornato. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora Pellegrini, intanto ci spieghi perché il litio, perché è così prezioso e per il momento insostituibile per fare batterie, soprattutto se le vogliamo leggere e abbastanza compatte? Sì, le batterie a ioni litio sono adesso la tecnologia più rilevante, di punta nel settore dell'immagazzinamento energetico. Gli ioni litio sono piccoli, sono mobili, si possono immagazzinare molto bene in materiali quali per esempio la grafite, quindi senza dubbio è la tecnologia più importante nel settore batterie che abbiamo oggi a disposizione. E comunque insomma la caratteristica importante del litio è di essere un atomo di metallo molto molto piccolo, perché le batterie chimiche funzionano così, abbiamo bisogno di spostare degli ioni e quindi più piccoli sono più è facile spostarli e farli circolare, detto più in modo piccoli, brutale. Esatto, più mobili, sì? E più incorporabili negli elettrodi e più facilmente rimuovibili. Ecco, e quali sono invece però oggi i limiti? Perché non si riescono a fare ancora più compatti, ancora più potenti? Perché comunque i limiti teorici sono abbastanza lontani rispetto a quello che riusciamo a fare. Sì, c'è senz'altro un limite di capacità, nel senso che una batteria ha bisogno di elettrodi, il catodo che fornisce gli ioni litio e l'anodo che riesce a incorporarli durante l'operazione, assorbirli, e diciamo che questi materiali a disposizione oggi nelle batterie, nelle tecnologie correnti, come per esempio la grafite per l'anodo, hanno una capacità limitata di assorbire, incorporare ioni litio, e questo limita la capacità della batteria. La ricerca, la scoperta di nuovi materiali, l'applicazione di nuovi materiali ha delle prospettive e fornisce delle prospettive molto importanti per incrementare la capacità di una batteria ioni litio anche di un ordine di grandezza. E quindi di 10 volte, certo. È una sfida abbastanza importante, ma non per il futuro fra 10 anni o 20 anni, per il futuro fra un anno probabilmente, perché la richiesta è così grossa che una soluzione va trovata. Ecco, questa soluzione chiama in causa un altro materiale famoso della nostra epoca, no? Il silicio. È certo, la soluzione, una soluzione a breve termine possibile è l'utilizzo, il rimpiazzare la grafite con il silicio. Particelle di silicio possono immagazzinare ioni litio più di un fattore 10 in più rispetto alla grafite. È una cosa che potrebbe veramente rivoluzionare il mondo delle batterie a ioni litio. Ecco, però questo silicio, quando si prova a farci una batteria, voi dite, si gode tantissimo al primo giro, poi dopo comincia ad andare male. Che cosa succede? È una cosa sorprendente. Quello che succede è che in realtà l'elettrodo fatto da questi agglomerati di particelle di silicio si spacca dopo pochi cicli della batteria, perché durante il funzionamento di una batteria questo elettrodo, questo materiale a base di silicio, a base di particelle di silicio, si espande in maniera drammatica, anche più del 300%, e si contrae. Quindi a ogni ciclo questo elettrodo si gonfia e si sgonfia, e evidentemente ciclo dopo ciclo, ma ne bastano pochi, certo, la batteria va a farsi ecco tenere. Basta immaginare una delle normali pile che mettiamo dentro, no? Ormai si usano poco quelle pile lì, ma insomma c'hanno dentro una sbarretta proprio di grafite. Immaginate se quella lì a un certo punto diventasse tre volte più grande, vi si aprirebbe in mano la pila, certo, mentre la usate. Ecco, c'è un problema quindi non banale. E quale potrebbe essere la soluzione? Perché allora, ci avete pensato naturalmente. In tanti ci stanno pensando, ci sono varie diverse prospettive molto rilevanti, anche potenzialmente applicabili in tempi brevi. Una di queste è quella di integrare queste particelle di silicio con il grafene, questo foglio di atomi di carbonio che è spesso quanto un atomo, che in questo contesto sarebbe usato come additivo per creare questo anodo silicio-grafene che unirebbe la grande capacità richiesta dalle esigenze di oggi con la elevata ciclabilità, cioè il fatto che la batteria può essere utilizzata più e più volte senza degradarsi. Diciamo che in qualche modo immaginate, se ho capito bene, di usare questo foglio monoatomico che è il grafene per costruire una specie di armadio su cui tenere queste particelle, per fare da struttura fissa, per cui queste particelle di silicio possono allargarsi, restringersi senza cambiare le dimensioni dell'armadio. Esatto. No? Sì, oppure se vogliamo usare un'altra immagine, come una rete, no? Che le imbriglia e quindi impedisce a queste particelle di espandersi, quindi a questo elettrodo di gonfiarsi, perché appunto è presente questa maglia, che tra l'altro ha anche altre caratteristiche oltre questa meccanica, conduce elettricità, che quindi è una cosa buona per le batterie, eccetera. Grazie Vittorio Pellegrini. Grazie a voi.